neanche le stelle alle parti mie risplendono così. Ma che sorpresa sei per me, come è successo che sei qui? Da dove vieni? Che fai qui con me? Che fai tu qui con me? Com'è successo che sei qui? Sono terra brulla quando è in fiamme il cielo, pioggia di marzo, nave che parte, questo sei tu. Ma in un attimo voliamo via. E accatastati alle spalle tutti gli anni miei, quando